Capitolo 143esimo. Eracle a Trachine. Sempre seguito dai suoi alleati arcadi, Eracle giunse a Trachine, dove si stabilì per qualche tempo sotto la protezione di Ceice. Strada facendo era passato per il paese dei Driopi, ai piedi del monte Parnaso, e colà trovò re Teodamante, figlio di Driope, intento ad arare i campi con un aratro tirato dai buoi. Poiché era affamato, inoltre in cerca di un pretesto per fare guerra ai Driopi che, come ognuno sa, non avevano alcun diritto di occupare quella regione, Eracle chiese che gli fosse consegnato uno dei buoi e uccise Teodamante, che glielo rifiutò. Dopo aver scannato il bue e banchettato con la sua carne, Eracle rapì il figlioletto di Teodamante, Ila, di cui era madre la ninfa Menodice, figlia di Orione. Altri invece dicono che il padre di Ila fu Ceice o Eufemo o Teomene, e affermano che Teodamante era il contadino Rodio che maledì da lontano Eracle quando questi sacrificò uno dei suoi buoi. Pare che Filante, successore di Teodamante, violasse il tempio di Apollo a Delfi. Per vendicare quell'oltraggio, in nome di Apollo, Eracle uccise Filante e rapì sua figlia Meda. Meda generò a Eracle un figlio, Antioco, fondatore del demo ateniese che porta il suo nome. Eracle scacciò poi i Driopi dalla loro città sulle pendici del Parnaso e vi installò i Maliesi che lo avevano aiutato a conquistarla. Portò a Delfi i capi Driopi perché servissero come schiavi nel tempio, ma poiché Apollo non sapeva che farsene, furono mandati nel Peloponneso, dove riuscirono ad ingraziarsi il favore di Euristeo il Gran Re. Per suo ordine, con l'aiuto di altri compatrioti, costruirono tre città, Asine, Ermione e Eone. Degli altri Driopi superstiti, alcuni fuggirono in Eubea, altri a Cipro e nell'isola di Cinto, ma soltanto gli abitanti di Asine ancora si vantano d'essere Driopi. Hanno innalzato un tempio al loro avo, Driope, dove si ammira un antico simulacro e ogni 2 anni celebrano misteri in suo onore. Driope nacque da Apollo e da Dia, una figlia di re Licaone. Dia, appunto, temendo l'ira del padre, nascose il bimbo nel cavo di una quercia, e di qui il suo nome. Altri dicono che Driope stesso guidò la sua gente dal tessalico fiume Sperchio fino ad Asine, e che egli era figlio di Sperchio e della ninfa Polidora. Sorse una contesa a proposito dei confini tra i Doridi e Stiotide, governati da re Egimio, e i Lapiti del monte Olimpo, un tempo alleati dei Driopi, il cui re era Corono, figlio di Caneo. I Dori, sopraffatti dai Lapiti, che erano molto più numerosi, ricorsero a Eracle per invocarne l'aiuto, offrendogli in cambio un terzo del loro regno. Eracle allora, con i suoi alleati arcadi, sconfisse i Lapiti, uccise Corono e molti dei suoi sudditi e costrinse i Vinti ad abbandonare il territorio conteso. Alcuni di loro si stabilirono a Corinto. Egimio allora continuò ad amministrare un terzo del regno per conto dei discendenti di Eracle. Eracle poi si recò a Itono, una città della Ftiotide, dove sorge un antico tempio di Atena. Colà si imbatté in Cicno, figlio di Ares e di Pelopia, che usava offrire premi di grande valore agli ospiti, i quali volessero misurarsi con lui in una gara di corsa con i cocchi. Cicno, che vinceva sempre, tagliava le teste agli avversari e ne usava i crani per decorare il tempio del padre suo Ares. Questo Cicno, badate, non era però colui che Ares generò in Pirene e che quando morì fu trasformato in cigno. Apollo, irritato con Cicno perché razziava le mandrie dirette al santuario di Delfi, incitò Eracle ad accettare la sua sfida. Fu convenuto che l'auriga di Eracle fosse Iolao e l'auriga di Cicno il padre suo Ares. Eracle, benché ciò fosse contrario alle sue abitudini, indossò per l'occasione i lucidi schinieri di bronzo che Efesto aveva fabbricati per lui e la corazza aurea donatagli da Atena. Armato con arco, frecce e lancia, il capo coperto dall'elmo e al braccio lo splendido scudo donatogli da Zeus, pure opera di Efesto, agilmente montò sul suo cocchio. Atena, discesa dall'Olimpo, avvertì Eracle che, pur avendo ottenuto da Giove la facoltà di uccidere e spogliare Cicno, non doveva far altro che difendersi da Ares e, anche se vittorioso, non poteva privarlo dei suoi cavalli e della sua splendida armatura. Poi la dea salì sul cocchio accanto a Eracle e a Iolao, scrollò l'egida e la madre terra gemette mentre il cocchio scattava in avanti. Cicno si lanciò verso gli avversari a tutta velocità. e per la violenza dell'urto tra i due cocchi cadde a terra con Eracle, lancia contro scudo. Subito balzarono in piedi tutti e due, e dopo breve lotta Eracle trapassò il collo di Cicno. Poi affrontò coraggiosamente Ares, che gli scagliò contro la lancia, ma Atena, corrugando sdegnata la fronte, la fece deviare. Ares allora si precipitò su Eracle con una spada in mano, ma riuscì soltanto a buscarsi una ferita alla coscia ed Eracle gli avrebbe inferto un altro colpo mentre il dio giaceva al suolo se Zeus non avesse separato i due contendenti con una folgore. Eracle e Iolao allora spogliarono Cicno della sua armatura e ripresero il viaggio interrotto mentre Atena trasportava sull'Olimpo Ares svenuto. Cicno fu sepolto da Ceice nella valle dell'Anauro, ma, per ordine di Apollo, le acque del fiume in piena spazzarono via la sua pietra tombale. Alcuni tuttavia dicono che Cicno visse ad Anfane e che Eracle lo uccise con una freccia presso il fiume Peneo, oppure a Pagase. Passando dalla Pelasgiotide, Eracle giunse a Ormenio, una piccola città ai piedi del monte Pelio, dove re Amintore rifiutò di concedergli sua figlia Astidamia. «Sei già sposato», gli disse, «ed hai già tradito troppe principesse per meritare che io te ne conceda un'altra». Eracle attaccò la città e, dopo aver ucciso Amintore, rapì Astidamia, dalla quale ebbe un figlio, Ctesippo, o, altri dicono, Tlepolemo. Il sacrificio di un bue aggiogato all'aratro, la maledizione di Teodamante e il fanciullo Ila che sorge da un solco, sono tutti episodi del rito pre-ellenico della mietitura. Il sangue del bue propizia i favori della dea terra, le maledizioni allontanano l'ira divina dai campi e il fanciullo rappresenta la messe futura, e cioè Pluto, che Demetra generò dall'Asio quando si furono uniti in un campo arato tre volte. Teodamante è lo spirito dell'anno vecchio, ora finito. L'annuale lamentazione per Ila, lo spirito dell'albero, è stata qui confusa con il lamento per lo spirito del grano. Eracle, che scaccia i driopi dal Parnaso con l'aiuto dei dori, e l'emigrazione dei driopi nella Grecia meridionale, sono eventi storici verificatisi probabilmente nel XII secolo prima di Cristo, precedenti cioè l'invasione dorica del Peloponneso. La gara di Eracle con Cicno ricorda la corsa dei cocchi di Pelope ed Enomao, un altro figlio di Ares, eppure famoso per la sua raccolta di teschi. In ambedue i casi una donna salì su uno dei cocchi, la figlia di Enomao, Ippodamia, che fu la causa della sua contesa con Pelope, e Atena, che a quanto pare si identifica con la precedente, cioè rappresenta la sposa destinata al nuovo re. Cicno, come lo spartano Polideuce, è un re del culto del cigno, la cui anima vola via verso l'oltretomba dell'estremo settentrione. Il nome di Egimio, se davvero significa colui che fa la parte di una capra, lascia supporre che egli, a Calen di Maggio, mascherato da capra, si unisse in matrimonio con la regina della tribù e che nella guerra da lui sostenuta contro i Lapiti della Tessaglia settentrionale, i suoi dori combattessero a fianco dei centauri, nemici ereditari dei Lapiti. I centauri, infatti, come i satiri, sono anticamente descritti come uomini capre. Cipselo, tiranno di Corinto, famoso per il suo cofano intagliato, si vantava discendente dalla stirpe regale lapitica di Ceneo.